vi voglio, cari amici, presentare una casa portoghese, deliziosa nella sua semplicità, una casa portoghese. Gli abitanti dal sorriso di bontà sono allegri e sono felici, sono tutti grandi amici, non conoscono ricchezza ma sono ricchi di franchezza. Quattro parenti celesti, rose scarlatte in giardino, cesti con uva dorata e un profumo di buon vino. Un San José sulla porta al sole di primavera, ed una donna che aspetta mentre ogni sogno s'avvera. È una casa portoghese con certezza, e con certezza è una casa portoghese. Forestiero, quando arrivi d'oltre mare, nella terra portoghese, una cosa non potrai dimenticare, è la casa portoghese. Non amarmi o lampadari di cristallo, ma un minuscolo camino. È più bella d'un castello, è uno splendido gioiello, una casa portoghese. Sulla porta al sole di primavera, ed una donna che aspetta mentre ogni sogno s'avvera. È una casa portoghese con certezza, e con certezza è una casa portoghese. Una casa, casa portoghese, portoghese. Vamos!